the face of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Get vaccinated or get fired? Healthcare workers in hot dogs screaming no. Diciamo che questo è un po' l'antefatto di quello che è successo ieri in America. Poi ha preso realmente forma a Washington con una decisione, una presa di posizione importante. Però l'antefatto noi invece lo vogliamo ambientare nello stato di New York, in un posto che si chiama Stony Brook, dove c'è peraltro la famosa università, l'università pubblica dello stato di New York, dove c'è stata una bella protesta per motivi che secondo me sono esattamente contrari a quelli per cui ci potrebbe essere una protesta in Italia, che però spiegano certe cose che poi accadono a Washington. Le voci che avete sentito che gridavano no more shots, no more shots, che vuol dire niente più vaccini, erano quelli di una serie di lavoratori della sanità americana, infermieri, operatori, gente che lavora negli ospedali, perfino, come hanno detto in cavolati, io sono uno che lavora nella dietetica, ma che volete da me, che rifiutano recisamente di farsi il vaccino contro l'influenza A, perché così va l'America, così la pensa l'America, e se dallo Stato, da Washington arriva, o dallo Stato semplicemente a cui si appartiene, arriva la comanda di vaccinarsi perché lavori nella sanità e quindi è buona cosa che tu non sia malato nel momento in cui il tuo paese vive una emergenza, i cittadini immediatamente dicono ma cosa vogliono a me, ma sarò bene io che decido quando mi vaccino o non mi vaccino e se mi vaccino. Al tempo stesso dicono qui mi minacciano il licenziamento se non faccio questo vaccino. È successo un discreto bailamme al riguardo, bailamme che va, guarda un po', proprio sotto braccio con quello che è successo invece a Washington, dove la Commissione Finanze del Senato ha visto una cospicua, discreta fetta di democratici unirsi ai repubblicani nel dare il primo colpo, direi piuttosto duro, adesso valuteremo quanto duro, alla proposta di riforma sanitaria promossa da Barack Obama e dalla sua amministrazione. In pratica è stata bocciata l'idea di creare una opzione pubblica, un'alternativa gestita dallo Stato che, come Obama ha gridato ai 420, serviva soprattutto a calmierare il mercato, a rendere veramente possibile una copertura sanitaria per tutti, anche nel senso di non sentirsi, per esempio, rifiutare una copertura sanitaria in casi magari particolari di situazioni di salute grave e quant'altro. Ma si è detto chiaramente di no. I senatori hanno votato contro gli emendamenti presentati dai democratici Rockefeller e Schumer e si va avanti. Anzi, si va indietro, l'arretramento sulla definizione di questa riforma sanitaria continua e bisogna vedere quale sarà poi la linea Maginot, la Mason-Dixon, non so come dire, dove oltre la quale non si va, se no la riforma sanitaria non è più tale. Ma queste domande adesso le giro a un gradito e abituale ospite dei nostri programmi, prima lo sentivamo a Jefferson, ora lo sentiamo qui a Buongiorno America, ovvero Guido Moltedo di Europa, autore tra l'altro di un ottimo volume su Obama, che si chiama Obama, la rockstar della politica americana. Buon pomeriggio, Guido. Buongiorno a tutti voi. Allora, che ne pensi di questi lavoratori della sanità che dicono niente vaccino se viene imposto, e al tempo stesso quello che accade a Washington? È proprio un fatto, come dire, uno stato mentale, pensi? Sì, è un fatto culturale, una questione che ha poco a che fare con la sanità in senso stretto, è proprio un atteggiamento nei confronti di tutto ciò che può essere visto come imposizione e intrusione nella vita della gente. Questo è un dato della cultura americana abbastanza diffuso e con cui appunto si fa i conti anche a proposito della riforma sanitaria, che molti non vedono appunto come una riforma che riguarda la sanità in senso stretto, ma come un eccessivo ruolo che assumerebbe lo Stato in un ambito che comunque ha a che fare con la vita della gente, con la vita personale, ed è questo uno dei problemi con cui ha a che fare l'amministrazione e con cui ha a che fare il Partito Democratico. Non è tanto la tecnicalità, per così dire, della riforma, ma proprio il ruolo dello Stato che assumerebbe nella gestione di questa riforma, e questo è uno degli scogli tra i più difficili ovviamente, proprio perché questo è un dato molto radicato in una parte consistente della società americana. Eppure Obama insomma si è speso tantissimo nelle ultime settimane per spiegare che almeno in questo caso il ruolo dello Stato era un ruolo di calmiere, no? Di riflessivo, di buon senso, no? All'interno di un mercato piuttosto drogato come quello delle assicurazioni sanitarie, ma non è servito a nulla, si direbbe. Beh, no, è servito, nel senso che se noi guardiamo l'atteggiamento dell'opinione pubblica americana, il fatto che sia sceso in campo il presidente ha un po' calmato, molti si ricorderanno nel mese di agosto dei town meeting molto accesi, delle assemblee in cui c'era un'opinione pubblica abbastanza scatenata contro la riforma sanitaria. Ora, gli ultimi sondaggi dicono addirittura che una maggioranza degli americani sarebbe disposta a pagare anche più tasse pur di avere una migliore riforma, e che l'altro dato che è inquietante è che una minoranza pensa che poi la riforma migliorerà le cose, cioè a questo certo, punto certo. Può essere scattato un certo pessimismo. Certo. Il problema è che il presidente ha delegato interamente al Congresso di entrare nei dettagli, certo. E lui si è guardato bene fino adesso di dire veramente cosa pensa su alcune cose fondamentali, come tra le altre cose la public option. Certo. Quanto secondo te questo arretrare, no, il fronte nel tentativo di far passare, di affermare questa riforma avverrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Cioè quanto il compromesso dovrà invadere in un certo senso l'intenzione di cambiare le cose nella sanità americana? Beh, allo stato attuale tutti dicono che non c'è la maggioranza al Senato per certo. Far passare la public option, questo è un dato, quindi sarà difficile adesso lavorare, ci saranno altri passaggi legislativi, anche in altre commissioni se ne discuterà, poi ci sarà una conferenza all'interno del Senato, c'è la Camera dove invece c'è una maggioranza migliore a favore della public certo. option, però lì al Senato invece c'è il problema, alla Camera c'è il problema di un vasto fronte che non vuole che sia inserito che non sia inserito l'aborto certo, nella, certo. E quello è un altro problema molto grosso. Appena apparso all'orizzonte anche questo. Del resto, quanto Obama ha investito, no, del proprio lavoro, non solo del proprio prestigio, ma anche del significato della sua presidenza su questa questione, fa sì che diventi impellente, no, arrivare comunque a un risultato in tempi neanche troppo lunghi, non pensi? Beh sì, comunque è il fatto stesso che Obama abbia messo questa che è la riforma più difficile, più certo. impopolare all'inizio del suo mandato, dove la sua popolarità è molto alta, è un segno anche della sua intelligenza politica, perché è chiaro che è disposto a pagare un prezzo anche molto alto pur di farla passare. Il problema forse che ha sottovalutato è che gli altri non sono forse altrettanto disposti a pagare un prezzo alto, certo. Io mi riferisco ai senatori che il prossimo anno dovranno certo, affrontare certo. le urne, i deputati, gli elettorati locali, esatto. certo. Ti faccio un'ultima domanda, Guido, perché alle 9 ora italiana, alle 3 ore di Washington, c'è un discreto consesso che si raduna nello studio ovale attorno al presidente Obama. C'è Joe Biden, c'è Hillary Clinton, c'è Robert Gates, il segretario della difesa, sì. c'è Olbruchi, c'è Mullen, il chief of staff, c'è Petraeus, c'è sì. McChrystal, c'è Leon Panetta della CIA, insomma c'è tutta la mente pensante americana sul tema Afghanistan e si comincia, come si direbbe, no, si lavora finché non si trova una soluzione per elaborare una nuova strategia. Vuoi dire due parole a riguardo? Sì, io penso che Obama abbia chiaro l'approdo della strategia, cioè lui vuole effettivamente ridurre al massimo la presenza certo. e riportarla alla sua origine, cioè che era quella di dare la caccia certo. ad Al-Qaeda, non certo. della nation building, certo. Insomma. E il problema è del passato, come ci si arriva a questo? Questo è il rompicapo che ha di fronte lui e tutto il suo staff, come passare da una strategia che prevedeva anche l'aumento delle truppe addirittura, come tuttora chiede McChrystal, a invece una strategia di totale revisione strategica e di e di focalizzazione di tutto sulla caccia d'Al-Qaeda, rendendo marginale tutto il resto. Perché in quello studio Vale non è che ci siano persone che la pensano tutte allo stesso modo, tutt'altro direi. No, c'è una divisione di valutazione. Da una parte c'è Joe Biden che caldeggia appunto una riduzione dell'impresa americana, e dall'altra invece la parte più clintoniana, la Clinton stessa e Holbrooke, che invece sono dalla parte dei generali. Però io penso che Obama, il presidente, che poi a lui spetta l'ultima parola ovviamente, è più orientato a un... l'ha detto, l'opinione pubblica americana, certo, è stanca, certo, è stanca di questa. Certo. Quando un presidente dice una cosa del genere è evidente che vuole dire un messaggio, certo, di un certo tipo, andare in una certa direzione. Sì. Ti ringrazio, grazie a Guido Molteto di Europa. Seguiremo naturalmente gli sviluppi di questo vertice sulla politica internazionale. C'è anche da seguire l'esito della spedizione. Michelle è andata avanti, no? È andata a Copenaghen per portare a Chicago le Olimpiadi 2016. Sono questioni naturalmente completamente diverse, ma c'è su tanti argomenti diversi, su tanti tavoli diversi in gioco in questo momento il prestigio di una Casa Bianca arrivata quasi imbattuta a questi cimenti di diverso livello e che adesso affronta le prime difficoltà. Vabbè, il pezzo non serve che lo si presenti perché è cosa ben nota, ma ci serve per introdurre nella seconda parte del programma di oggi un omaggio che vogliamo fare a un personaggio che ha significato molto per gli anni passati, gli anni Ottanta. Buongiorno America. A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. Questa che è stata appena elencata è la strana composizione di un estemporaneo club che si chiamava The Breakfast Club, dei ragazzi cattivi, puniti, messi insieme in una aula di scuola, così per espiare la loro cattiva condotta, che però diventano qualcosa di diverso, diventano una riflessione su loro stessi, sulla loro condizione, sui loro tempi, sulla gioventù, sull'essere giovani negli anni Ottanta. Si chiamava The Breakfast Club e fu un film simbolo dell'America degli anni Ottanta, della gioventù degli anni Ottanta, forse degli anni Ottanta tout court, a firma di un regista, sceneggiatore, produttore che sarebbe diventato poi probabilmente il più significativo autore, la più significativa personalità di quegli anni, ma che però è sempre stato poco conosciuto perché i suoi sono i film che poi tutti abbiamo visto, che però è difficile connettere un solo cervello perché la sua matrice autorale magari è così un po' più in secondo piano, si pensa che vengano da menti diverse, invece dietro c'era sempre lui. E questo signore a soli 59 anni è morto durante il mese di agosto. Si chiama John Hughes, è stato, ripeto, secondo me il talento più significativo, più interessante della Hollywood di quegli anni, ed è morto improvvisamente in trasferta dall'altra parte, no? Nella amata, odiata New York, facendo una passeggiata la mattina, ha avuto un malore, un infarto, ed è morto improvvisamente, lasciando così senza fiato il mondo dello spettacolo americano e lasciando poi nella totale ignoranza della sua scomparsa invece anche il mondo in genere, perché si sa, morire d'agosto per una celebrity è un po' una dannazione, no? Un po' una maledizione, la gente legge poco i giornali, non guarda la televisione, e lui se n'è andato in silenzio. Del resto se n'era già andato da un bel pezzo, dal primo piano, ha fatto un sacco di soldi con i suoi film che adesso vi elencherò. Soprattutto aveva detto quello che aveva da dire, e non essendo un realizzatore seriale, lui raccontava raccontava che i suoi film non erano paragonabili a una tazza di buon tè profumato e raffinato. Dice: i miei film sono fatti un po' come il caffè che ti prendi mentre ti lavano la macchina dal bicchierino, dal distributore. Raccontava che agli esordi dava azione alla cinepresa, quando ancora la cinepresa era spenta e tutto il set lo guardava come se fosse un matto. Insomma, era un talento improvvisato ma estremamente significativo. Soprattutto era un signore che aveva il polso, no? intuiva il segno dei tempi e sapeva raccontarlo, sapeva soprattutto descriverlo, sapeva metterlo in scena, in modo che poi una delle funzioni più importanti del cinema, ovvero la condivisione, no? Si creasse in quella magia che diventava poi non più un fenomeno americano, ma un fenomeno addirittura internazionale. How about a nice hot dog and a beer? Just a hot dog then. Slurpee? Del Griffin. Pleased to meet you, Neil Page. Questo è il trailer del mio film preferito, anche se conta assai poco, di John Hughes. Si chiama Planes, Trains and Automobiles, nella versione originale, ma in italiano lo conosciamo e spero stiate ballando sulla sedia come un biglietto per due. Steve Martin e il povero John Candy erano i protagonisti di quel impossibile ritorno a casa nel giorno del ringraziamento, in cui due che si odiavano imparano poi disperatamente ad amarsi, perché questa è anche un po' la storia della vita. E resta questo biglietto per due, se non l'avete mai visto fatelo immediatamente, uno dei film più divertenti in assoluto, credo, della storia del cinema. Ma ripeto, John Hughes ha avuto soprattutto un grande significato che non ha fatto in tempo a essere storicizzato, per il semplice fatto che è morto giovane, non ha neanche 60 anni, era un po' sparito dalla circolazione, ormai si occupava solo alla lontana di produzione, firmava qualche sceneggiatura o qualche revisione volutamente col nome di Edmond Dantès. Detto questo, è detto tutto. Però lui che cosa aveva voluto fare durante il momento caldo della sua produzione? Aveva voluto indagare a fondo nel cuore della giovinezza americana e direi anche della giovinezza a sé stante, come condizione condivisa. Ha provato a capire che cos'erano gli anni 80, ha provato a definirlo come anni di corsa, anni in cui si cresceva in fretta, anni di esperimenti, no? In cui i giovani ormai avevano consolidato il proprio potere, la propria centralità, però poi non sapevano esattamente cosa farne di questo potere. Anni di ottimismo, anni di speranza, però anni anche poi di grandi deflagrazioni, di grandi cadute. I suoi film sono sempre disperatamente dolce amari. Kevin! Ah! Home alone. In the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wolf. E poi sapeva soprattutto far ridere John Hughes. Questa è Home Alone, Macaulay Culkin ai suoi esordi, una delle cose più divertenti che si siano mai viste al cinema. Padre poi di una serie di film, lui è stato padre anche della serie di Beethoven, no? Il cagnone enorme e assai dolce. Però questi erano i film in cui, al di là dello scoprire dei talenti, Hughes ha saputo contrappuntare su alcuni difetti, su alcune fissazioni degli americani, per appunto la fissazione per le vacanze, la fissazione per la famiglia quando diventa un eccesso, la fissazione per i viaggi un po' a casaccio come disperati in giro per il mondo, la fissazione per i bambini considerati sempre troppo sinonimo di innocenza, quando invece secondo lui lo stato scoperto, lo stato difficile era quello che veniva dopo, no? Quella adolescenza era quello, lo stato innocente e in un certo senso il magico momento della iniziazione. Lui ha questo concetto del momento magico, della golden age, dell'età d'oro così assai effimera, no? Che scompare nel giro di pochi anni, ci teneva un sacco e ci lavorava attorno ossessivamente, prima come giornalista, poi come sceneggiatore improvvisato e poi con i suoi film, Breakfast Club, appunto, 16 Candles, Wire Scenes, Carly Sue, sono titoli bellissimi che sono peraltro poi diventati dei must del cinema in DVD. Universal Pictures presents 16 candles. This is the single worst day of my entire life. The story of a girl. E poi c'aveva i suoi attori feticcio, uno l'ho già citato, John Candy, il ciccione di tanti suoi film, Andrew McCarthy, che faceva sempre la parte, era una compagnia di giro questa, no? Faceva sempre la parte del bravo ragazzo che tornava a casa dall'università, aveva sempre qualche scoperta amara da fare, ma poi insomma era il polso, era l'emblema della middle class americana forte, insomma quella che tiene in piedi il paese. E poi una ragazza che attraverso i film di Johnny Hughes approdò a una formidabile prematura celebrità per poi perderla in modo precipitoso e non riacquistarla mai più. Lei si chiama Molly Ringwald, non so se ve la ricordate, fece un altro film molto famoso anche in Italia, si chiamava Pretty in Pink, Bella in Rosa, che è stato un po' il suo canto del cigno. A 22 anni era già praticamente disoccupata, adesso copre parti così di contorno in serial televisivi. Molly Ringwald è scomparsa, come sono un po' spariti, sono sparpagliati i film di Johnny Hughes, e soprattutto come sono scomparsi del tutto invece quegli entusiasmi, quelle sensazioni, quella elettrizzante, no, gioia di vivere, però poi sempre sull'orlo del baratro, che erano quegli anni 60, che hanno quegli anni 80, che hanno avuto un grande interprete cinematografico e se n'è andato in fretta e che vedrete da adesso in poi più o meno diventerà un autore. Autori per forza, autori in ritardo. John Hughes, questo era Buongiorno America di oggi. Sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, la regia a Roma di Alessandro Chiappini, a Milano di Carmelo Lauricella, la mail è buongiornoamerica@radio24.it e il sito Facebook, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'1:30 qui su Radio 24, e state tutti bene.